le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tangenti ANAS, parla il presidente dell'azienda, Radio 24. Conobbi la dama nera, ne ebbi una pessima impressione. Chiediamo aiuto alle procure. È stata avviata la rotazione dei dirigenti. Dati falsi nel sistema informatico per incassare i premi di produttività. Perquisizioni nelle sedi dell'INPS. Si parla di 400 milioni solo per il 2012 e il 2013. Incidente in Francia, si scontrano un camion e un pullman, oltre 40 morti perdono la vita tra le fiamme, decine di anziani in gita. Si apre il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, siamo stati delegittimati dalla politica, dicono le toghe, più attenzione alle intercettazioni che alla mafia. Il disco uscirà il 20 novembre, oggi un primo assaggio del nuovo singolo di Adele, dopo 4 anni di silenzio, si intitola Hello. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Ieri abbiamo aperto parlando della maxi inchiesta sulle tangenti ANAS con il coinvolgimento dell'ex sottosegretario Luigi Meduri, che secondo i magistrati avrebbe avuto un ruolo da intermediario, e di questa donna arrestata, soprannominata la Dama Nera, che andava di fatto a collezionare le tangenti con questa immagine che è rimasta un po' impressa a tutti, di questa borsa sempre aperta nella quale appunto andava a confluire il denaro. Cristina Carpinelli ha raggiunto Gianni Vittorio Armani, che è il presidente dell'ANAS. Sentiamo. A conoscenza dei problemi corruttivi, ho licenziato i dipendenti di Firenze e licenzierò anche questi. E questa dama nera, questa vicenda, in qualche modo voi eravate a conoscenza di quanto avveniva? Guardi, io ho incontrato una volta sola questa persona e mi ha fatto un'impressione pessima. L'ho inserita in un processo, come diciamo tutti i miei dirigenti apicali, li ho inseriti in un processo di valutazione esterna, in modo da poter avere elementi per poter allontanare persone assolutamente inadeguate dal punto di vista manageriale dall'azienda, e lei era una di queste. E Armani parla anche di una richiesta di aiuto alle procure. Più avanti nel corso della trasmissione sentiremo l'intervista integrale a questo tema delle tangenti, dedicata all'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. Il procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, è un investigatore competente, indipendente, uno che ha fiuto l'uomo chiave dell'indagine su Mafia Capitale. Quando con i suoi uomini ha tolto il velo al sistema delle tangenti organizzato all'interno dell'ANAS, ha trovato una situazione, dice lui, a dir poco deprimente. Da quelle parti la corruzione era talmente normale, una abitudine, che la borsa della dirigente Antonella Accroianò era sempre aperta agli imprenditori e funzionari. Ci inserivano buste con mazzette di denaro. Diciamo che il sistema corruttivo era quotidiano. La Accroianò trattava pure male quei suoi colleghi che non erano, secondo lei, in grado di costringere gli imprenditori a pagare la tangente per ottenere in cambio favori o appalti per lavori pubblici. Ma i dirigenti dell'ANAS, infedeli, avevano bisogno della politica per mantenere coperto il sistema. Ed ecco spuntare nell'inchiesta il nome dell'ex sottosegretario alle infrastrutture Luigi Meduri, già componente della Margherita ai tempi del secondo governo Prodi, ex presidente della regione Calabria dal gennaio 99 all'aprile del 2000, fino a ieri membro dell'Assemblea Nazionale del PD, ora sospeso dalle sue funzioni. Nell'inchiesta delle fiamme gialle, chiamata Dama Nera, sono coinvolti, lo ricordo, 5 dirigenti funzionali dell'ANAS della Direzione Generale di Roma, 3 imprenditori titolari di aziende appaltatrici di primarie opere pubbliche e un avvocato, oltre allo stesso Meduri. E qui sta il vero problema. Le vere riforme si dovrebbero misurare anche con la capacità della politica di selezionare una nuova classe dirigente pulita, trasparente, etica. Ma l'inchiesta ANAS dimostra purtroppo che la strada è ancora tutta in salita. Così il nostro Daniele Biacchessi. Adesso passiamo all'incidente di questa mattina in Francia, molto grave. Erano le 7.30 del mattino quando un camion che trasportava legname ha probabilmente preso male una curva che ora in tanti ricordano come pericolosa, finendo nella corsia opposta dove viaggiava un pullman di pensionati in gita appena partito da un paesino lì vicino. Lo scontro è stato frontale, il pullman e il camion hanno preso fuoco e i pochi anziani che si sono salvati sono scappati dalle porte che l'autista del bus è riuscito a sbloccare, riferisce alla televisione francese il medico che ha visitato il conducente e ascoltato il suo racconto. Il bilancio è di 42 morti, ma potrebbe aggravarsi perché degli 8 superstiti, 4 sono feriti gravemente. Da Atene, dove si trova in visita, il presidente francese Hollande ha rivolto le sue condoglianze ai familiari delle vittime. Nous devons adresser aux familles. Sul posto intanto sono arrivati il Premier, il Ministro dell'Interno e ovviamente le autorità locali, mentre il Ministero della Giustizia ha promesso sostegno alle famiglie e indagini per chiarire le responsabilità. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di Poste Italiane. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha illustrato oggi i dettagli della quotazione di una parte dell'azienda. Sentiamo. Il prezzo dell'IPO di Poste Italiane è stato fissato a 6,75 euro per azione, a metà della forchetta tra 6 e 7,5. Al pubblico indistinto e ai dipendenti di Poste Italiane verrà allocato il 30% dell'offerta globale e agli investitori istituzionali il 70%. L'offerta globale, spiegano i vertici del Tesoro, ha avuto a oggetto un quantitativo di azioni pari al 34,7% del capitale sociale, che sale al 38,2% in caso di integrale esercizio dell'opzione Greenshow. Il Tesoro incasserà dall'operazione quasi 3,4 miliardi di euro, risorse destinata alla riduzione del debito. Più che soddisfatto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. È la più importante quotazione dell'anno in Europa, certamente una delle più importanti questi anni, quindi è un'ulteriore dimostrazione che il paese è alla frontiera delle capacità manageriali, imprenditoriali e innovative. Anche la D di Poste Italiane, Francesco Caio, ha commentato positivamente i risultati dell'operazione. Ho sempre detto che il prezzo lo fa il mercato e ha fatto un bel prezzo e come al solito il mercato ha sempre ragione, siamo molto contenti. Nei piani del governo dopo quella di Poste dovrebbero decollare le privatizzazioni di altre partecipate come ENAV e FSA, oltre alla cessione alla Cassa Depositi e Prestiti del 12,5% detenuto dal Dicastero dell'Economia nel Fondo Italiano di Investimento, un programma che dovrebbe portare nelle casse pubbliche lo 0,4% del PIL di quest'anno e lo 0,5% nel prossimo triennio. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di casse dello Stato, la legge di stabilità, tra l'altro, ancora attesa dal Parlamento. Sentiamo. Passano le ore e il testo sembra sia fermo ancora sulla strada tra il Ministero delle Finanze e il Quirinale, o tra il Quirinale e le Camere. Qualche dettaglio però trapela. Archiviato il pagamento del canone in bolletta e il limite a 3.000 euro al contante che non si tocca, archiviato il taglio delle tasse sull'abitazione principale e l'agevolazione del 140% sui macchinari, il governo puntella il capitolo gioco facendo sapere che i punti scommesse saranno ridotti a 15.000 e che il prelievo fiscale sarà aumentato a carico degli esercenti. Nella pubblica amministrazione verrà ridotto il turnover. Nel triennio 2016-2018 solo un quarto della spesa potrà essere utilizzato per le nuove assunzioni. Sarà poi rivisto anche il tetto ai compensi dei manager con la definizione di 3 fasce, fatto salvo il limite massimo dei 240.000 euro annui. Sulla impossibilità per gli enti locali di mettere mano alle tasse e sulle risorse per la sanità però la partita con le regioni potrebbe diventare difficile. Dal blocco del fisco locale sono esclusi gli aumenti automatici già previsti per le 8 regioni in disavanzo sanitario. Per la sanità il miliardo in più stanziato sul 2016 sarebbe vincolato per la gran parte ai nuovi livelli essenziali di assistenza. Poi c'è la campagna per i vaccini e quella per i farmaci contro l'epatite C. Una lista troppo lunga, secondo i governatori. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi ci sono dati economici interessanti che riguardano sia le industrie che i consumi. Non è stato un buon mese di agosto per l'industria italiana, stando ai dati dell'Istat. Il fatturato si è contratto dell'1,6% rispetto a luglio e nel trimestre la flessione è dello 0,1% rispetto ai 3 mesi precedenti. Per gli ordinativi si registra una diminuzione del 5,5%, con cali del 7,4% per quelli interni e poco meno del 3% per quelli esteri. In controtendenza, ancora una volta, l'andamento del settore auto, più 18,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e ordinativi in rialzo di oltre il 30%. A fronte di dati non particolarmente positivi per l'industria, ci sono invece buoni segnali per i consumi, la cui ripresa prosegue. Ad agosto le vendite al dettaglio sono salite dell'1,3% su base annua e variazioni positive si registrano sia per l'alimentare che per il non alimentare. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo a quello che vi accennavamo nei titoli, questa presunta maxi truffa all'INPS. Ci sono perquisizioni nelle sedi dell'istituto, si parla di 400 milioni solo per il 2012 e il 2013. Come funzionava? Ce lo spiega Carmelo Prestisimone in diretta. Carmelo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Le indagini dei carabinieri di Nocera, siamo nel Salernitano, hanno fatto emergere falsi rapporti di lavoro al fine di ottenere erogazioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. 44 ordinanze di custodia cautelare per imprenditori, per alcuni imprenditori e professionisti. Un'indagine nuova, è un nuovo filone investigativo di questa maxi inchiesta denominata Mastrolindo, che ha portato per il momento stamattina all'arresto appunto di questi 44 professionisti. Dall'indagine è emersa la costituzione di diverse aziende inesistenti, collocate soprattutto nel Salernitano, nell'agro nocerino sarnese, e operanti nel settore terziario come ditte di pulizie. Le indagini hanno anche accertato diverse incongruenze nel sistema di verifica del lavoro dell'INPS, consistenti nell'inserimento nel database di dati fittizi relativi alle ispezioni effettuate, al numero di rapporti di lavoro annullati. Per il momento è tutto, a te Simone. Sì, grazie a Carmelo Prestisimone. Numeri inseriti fittiziamente nel sistema informatico che, come già vi raccontavamo nei titoli, sarebbero serviti, secondo l'ipotesi della procura, ai dirigenti a incassare i premi di produttività. E si parla appunto di 400 milioni solo per il 2012 e il 2013. Oggi il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati e sembra rialzarsi l'attenzione con la politica. Gli interventi normativi per il contrasto alla corruzione sono timidi, serve più coraggio. L'accusa viene dal leader dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Sabelli, che sottolinea una timidezza incoerente con la scelta di aumentare le sanzioni per alcuni reati comuni, che sa invece di cedimento a superficiali appetiti giustizialisti. Al 32esimo congresso dell'associazione, Sabelli, che boccia come deludente il disegno di legge sulla prescrizione, parla della tensione tra politica e toghe. Non c'è più lo scontro aperto, bensì una dinamica meno accesa nella forma ma più complessa, dice il leader dell'ANM, che punta il dito contro chi, con una consapevole strategia di delegittimazione, ha raffigurato l'associazione come espressione di una corporazione volta alla difesa dei propri privilegi. Il sindacato delle toghe dice no anche alla subordinazione della giustizia all'economia. Va respinta l'idea, dice ancora Sabelli, che a minori controlli della magistratura corrisponda una maggiore crescita. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dunque dal congresso dell'ANM. Torniamo alla politica e parliamo del sindaco di Roma, Ignazio Marino, che rilancia e annuncia: potrei ricandidarmi alle primarie per appunto la scelta del candidato sindaco alla guida della capitale. Se si faranno le primarie nel PD è possibile che ci sia anch'io. Nonostante lo scandalo che lo ha travolto, Ignazio Marino non esclude una sua ricandidatura per tornare alla guida della capitale. È la città che mi chiede di restare, afferma il sindaco chirurgo, che intervistato da Repubblica aggiunge anche di avere ancora 11 giorni per verificare se la sua esperienza è davvero finita. Ho rassegnato le dimissioni solo per presentarmi davanti ai magistrati come un normale cittadino, ma non ho mai usato denaro pubblico a fini privati, ribadisce Marino, che fa però mea culpa sui suoi scontrini, ammettendo che ci sono stati errori, ma commessi in buona fede da parte degli impiegati del comune, che si sono visti costretti a giustificare spese fatte molti mesi prima. Non era mia moglie, la donna bionda vista con me in un ristorante, aggiunge ancora il primo cittadino, che ammette anche di non aver mai cenato con l'ambasciatore del Vietnam. Gli chiederò scusa, assicura Marino, il quale annuncia poi che per autobus e metropolitane della capitale sono in arrivo 38 milioni incassati grazie alla vendita di un rocchetto di nickel ottenuto da un privato che aveva un debito col comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, parliamo di musica. Oh. silenzio durato 4 anni, ci spiace andare sulla voce di Adele. Adele torna con 25, terzo e atteso disco dopo 19 e 21. La stessa artista a dare l'annuncio sulla sua pagina Facebook con un lungo messaggio. Il disco 25 è atteso per il prossimo 20 novembre. Hello è il titolo del primo singolo, corredato da un video che si può ascoltare e vedere su YouTube. L'ultimo disco di Adele risaliva al 2011, mentre nel 2012 la cantante britannica è stata scelta per interpretare Skyfall, la colonna sonora dell'omonimo film della saga di James Bond. Il brano, lo ricordiamo, ha vinto un Golden Globe, un Brit Award e l'Oscar per la migliore canzone e anche un Grammy. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, il traffico, e poi nella seconda parte parleremo con Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte e dimissionario presidente della Conferenza delle Regioni. Parleremo della manovra e anche del perché ha deciso di dimettersi. Sentiremo un'intervista integrale al presidente dell'ANAS sul tema della corruzione e poi, dato che non abbandoniamo quelle popolazioni, torniamo a Benevento per sentire che cosa succede a qualche giorno dall'alluvione. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie principali a partire da una nostra intervista, sentiremo l'integrale tra poco con il presidente dell'ANAS che dice: conobbi la dama nera arrestata ieri, pessima impressione, chiede aiuto alle procure, dice avviata la rotazione dei dirigenti. L'inchiesta sui dati falsi nel sistema informatico per incassare i premi di produttività, e parliamo dell'INPS, perquisizioni nelle sedi, si parla di 400 milioni solo per il 2012 e il 2013. Incidente in Francia, si scontrano un camion ed un pullman, oltre 40 morti, hanno perso la vita tra le fiamme decine di anziani in gita. Si apre il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, siamo stati delegittimati dalla politica, dicono che pensa più alle intercettazioni che alla mafia. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, a Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte e presidente dimissionario della Conferenza delle Regioni, dimissioni congelate mi sembra di aver capito, Chiamparino, buongiorno. Sì, buongiorno, sì, congelate perché abbiamo, diciamo, ho accettato la richiesta che è venuta da tutti i colleghi, che ringrazio, perché abbiamo la legge di stabilità, quindi sarebbe irresponsabile lasciare a cefala la conferenza stessa. Quindi, come dire, una volta passato il confronto sulla legge di stabilità e approvata la legge di stabilità, lei lascia comunque? Sì, perché ritengo che la conferenza delle regioni debba affrontare una stagione di sfide riformistiche molto impegnative, anche alla luce del nuovo Senato e alla luce di un protagonismo nuovo con cui le regioni devono anche un po' riscattare un passato non esaltante, e per fare quello c'è bisogno che a guidarle ci sia una regione, non è tanto quella di persone, credo, ma una regione che, come dire, rifletta quello che di più positivo è stato fatto in questi anni dal sistema regionale. Questo purtroppo non è colpa mia, credo, ma non è che ne ha in mente qualcuna in particolare lei? Beh, non mi sembra proprio, non voglio né danneggiare né favorire nessuno. Né favorire nessuno. Senta una cosa, ci sono altre due questioni sulle quali vorrei coinvolgerla. Sì. E la prima evidentemente è questo buco monster che si è trovato alla Regione Piemonte da 5,8 miliardi per la sanità, che immagino che in parte abbia anche giocato, se vogliamo, sulla sua scelta. E che non c'è dubbio. Che dipende da una tecnicalità, per così dire, che riguarda... Qui all'origine c'è un'ambiguità che riguarda la legge 35 del 2013, con cui le regioni potevano accendere dei mutui presso il tesoro per pagare i debiti commerciali arretrati. Sì. In questa legge c'era un'ambiguità, tant'è che la Corte Costituzionale l'ha definita anfibiologica, che dice già tutto, per cui non si capiva se questi erano mutui che quindi come tale concorrevano a ridurre il disavanzo o se erano anticipazioni che funzionavano solo come casse e lasciavano il disavanzo intonso. Sì. L'ambiguità è stata rivelata solo dalla Corte dei Conti del Piemonte e nella parificazione del bilancio 2013, tutte le altre Corti dei Conti e sezioni regionali hanno parificato i bilanci anche di quelle regioni. E quindi questo ha fatto venire in luce il fatto che praticamente quei mutui devono essere pagati, dovrebbero essere pagati due volte. Allora, quello che si chiede. E tra l'altro, mi scusi Chiamparino, ecco. Semplifico per gli ascoltatori, sì, certo. c'è anche un piano di rientro molto a più breve termine, nel senso che voi vi siete trovati improvvisamente con 7 anni di tempo, voi come le altre regioni in deficit, contro i 30 che avevate ipotizzato inizialmente, ho capito bene? Beh, i 30 sono quelli per restituire i mutui accesi per la legge 35, i 7 sono quelli giusti previsti dalla legge per assorbire il disavanzo. Sì. E in questo caso noi dovremmo assorbire 5 miliardi e 900 e 800 milioni in 7 anni, che 7 per 8 è 56, quindi vuol dire circa più di 800 milioni all'anno, insomma. Su un bilancio libero dalla sanità, che non può essere toccata, di 380 milioni, lei capisce, certo. Che è una situazione che non si può reggere. Tecnicamente impossibile. Tecnicamente impossibile, tant'è che il rimedio su cui le regioni hanno già dato un'intesa favorevole, su cui c'è già un testo concordato col MEF, si tratta di mere risistemazioni di norme di contabilità, non stiamo parlando di dare più soldi alle regioni o di allungare i termini del rientro dal debito, si parliamo solo di norme che consentano di neutralizzare gli effetti di quell'ambiguità legislativa che ci diceva. Un'ultima domanda le voglio fare riguarda la legge di stabilità e in particolare quello che vi riguarda è ancora una volta la sanità, perché abbiamo sentito il Presidente del Consiglio dire che non sarebbe stato consentito alle regioni e ai comuni di alzare le tasse, la faccio molto semplice, e poi abbiamo sentito il sottosegretario Zanetti dire no, in realtà possono alzare l'imposizione le regioni che hanno un deficit sanitario. Purtroppo è così, perché ma questo dipende da una legge dello stesso, non di questo governo, insomma dello Stato, perché le regioni che sono in piano di rientro sono obbligate. Mi scusi Chiamparino, ma lei lo trova corretto questo? Perché in realtà teoricamente, non so come dire, no, ci sono, dovrebbero essere... Però le regioni che sono in piano di rientro o che fossero in una situazione di grave default sono obbligate per legge, ripeto, ad aumentare le tasse, i due fonti poi di reddito che noi abbiamo, quindi di reddito di entrate, cioè IRAP e addizionale IRPEF. Ma è già successo, perché se lei va a vedere la situazione di Lazio e Campania, che sono entrate in piano di rientro, hanno già le aliquote al massimo livello. Il Piemonte non le ha solo perché aveva una situazione, pur essendo in piano di rientro dal 2011. Mi scusi, per farla brutale, è stimato un incremento di pressione fiscale dalle regioni in deficit per il prossimo anno? No, mi ripeto, difatti se si ascoltasse, io cosa ho detto ieri? Ho detto non c'è nessuna intenzione di alzare le tasse, si tenga solo conto che se ci fossero delle regioni che oggi non sono in piano di rientro e che quindi sono libere, normali, e che cadessero in piano di rientro perché non ce la fanno a fare con il fondo sanitario che gli spetta, queste sarebbero obbligate dalla legge dello Stato ad aumentare la tassazione. Al momento attuale, se il fondo per la sanità viene adeguatamente aumentato, e qui possiamo aprire un altro capitolo, questo rischio non c'è, perché chi l'ha aumentato era già aumentato in passato. Se non ci sono altre regioni che cadono nel piano di rientro, non vedo ragione perché venga aumentata la pressione fiscale. Dunque vedremo. Poi non so neanche se è possibile mettere, perché le regioni hanno una loro autonomia costituzionale, non so neanche se è possibile mettere un divieto per legge, ma in ogni caso rassicuro tutti, non c'è intenzione di nessuno. Non avete intenzione di aumentare le tasse. Vedremo come andrà nelle prossime settimane. Intanto la ringrazio, Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte e dimissionario presidente della Conferenza delle Regioni. Si diceva all'intervista della nostra Cristina Carpinelli al presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani all'indomani di quell'ondata di arresti. Sentiamola. Io pensavo di entrare in un'azienda sicuramente disorientata e con problemi di organizzazione tecnica, diciamo che andavano rimessi in piedi, controllo sui ponti, controllo sulle gallerie. Queste sono cose ovviamente su cui si può intervenire, sono evidenti, basta organizzarsi. La corruzione invece ha fenomeni difficilmente intercettabili senza l'aiuto delle procure. Io ne ho avuto un esempio nel caso di Firenze, dove ho avviato sulla base di informative anonime un controllo di audit interno, che però non ha fatto emergere nulla, perché in assenza di intercettazioni, in assenza di controlli ambientali, effettivamente le carte risultano sempre tutte a posto, anzi in situazioni appunto di corruzione le carte sono costruite per essere, diciamo, inattaccabili. Quindi lei cos'è che chiede di fatto per riuscire a fare bene questo lavoro di ripulitura all'interno dell'ANAS? Ma io chiedo, da una parte aiuto la procura, perché ho bisogno di alle procure urgenza nel identificare questo tipo di fenomeni. Ovviamente ho avviato una rotazione di tutte le posizioni chiave, 15 compartimenti su 20 sono stati ruotati, entro diciamo fine mese completerò il giro. Poi a conoscenza dei problemi corruttivi ho licenziato i dipendenti di Firenze e licenzierò anche questi. E questa dama nera, questa vicenda, in qualche modo voi eravate a conoscenza di quanto avveniva? Guardi, io ho incontrato una volta sola questa persona e mi ha fatto un'impressione pessima. L'ho inserita in un processo, come diciamo tutti i miei dirigenti apicali, li ho inseriti in un processo di valutazione esterna, in modo da poter avere elementi per poter allontanare persone assolutamente inadeguate dal punto di vista manageriale dall'azienda. E lei era una di queste, infatti è risultata ultima in una graduatoria su 50 che mi avrebbe consentito comunque di allontanarla dall'azienda per motivi professionali. Poi subentrati in problema corruttivo, questo ha accelerato tutto quanto il processo. Lo abbiamo detto e continuiamo, non abbiamo intenzione di abbandonare il Sannio colpito dall'alluvione. Nei giorni scorsi abbiamo sentito il presidente degli industriali di Benevento che ci ha parlato di 500 milioni di euro di danni. La nostra Raffaella Calandra, inviata nella zona e oggi proprio nell'area industriale di Benevento. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno, qui il vento sta spazzando via le nuvole, finalmente oggi un timido sole illumina il Sannio, ma possiamo dire che mostra in modo ancora più spietato i danni della doppia alluvione. Le scuole oggi qui a Benevento si sono riaperte dopo una settimana ed è una lenta ripresa verso una normalità però ancora lontanissima, soprattutto per il mondo agricolo, come potranno verificare di persona domani il Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura Galletti e Martina. Io sono nell'area industriale di Benevento. Per arrivarci ho camminato per chilometri su strade diventate come ponti su ettari di vigneti abbattuti dal fiume, su canyon aperti nei terreni un tempo coltivati e su tappeti di pietra che diventano però colline di fango mano a mano che ci si avvicini all'area industriale di Benevento, appunto la zona di Ponte Valentino. Qui alberi interi e detriti di ogni genere hanno sfondato i capannoni di imprese dove lavorano circa 1500 persone e la paura è che la doppia alluvione possa essere stato un colpo fatale per l'economia dell'intera area. Per questo poco fa decine di piccoli coltivatori sono venuti qui nello spiazzale della Agriseni, dell'azienda della famiglia Minicozzi, che è la più danneggiata insieme al pastificio Rummo. Io sono con Pio Minicozzi, uno dei tre fratelli che gestiscono l'azienda e che rifornisce di cereali anche in realtà come la Barilla. Allora, signor Minicozzi, voi siete a rischio voi, ma anche i tanti produttori della zona, e questo è un po' il rischio. Io sono Pio Minicozzi, sono uno dei titolari della Agrisemi Minicozzi e praticamente noi riproduciamo grana da seme con della Barilla e per il pastificio Vogliel. Dietro a noi ci sono circa 5.000 aziende e 10.000 ettari e quindi il valore economico è molto importante per la nostra zona. Io domani spiego pure al ministro Martini, che è il ministro dell'agricoltura, come può sollevare, almeno dare uno start iniziale per iniziare a seminare la nuova campagna agraria. Cioè, qui in sostanza hanno bisogno soprattutto di un aiuto economico per ripartire, giusto signor Minicozzi? La semina ormai si fa a giorni, quindi la nuova campagna insomma è vicina e quindi le aziende agricole hanno bisogno del seme e quindi ci vuole un valore economico aggiuntivo, dato che il disastro che ci ha combinato questa alluvione. Simone. Grazie, grazie alla nostra Raffaella Calandra, che poi tornerà su questi temi con storiacce e anche con un reportage. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, ben galvanizzati ci sembra dalle parole di Draghi di ieri, e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo, come spesso facciamo in questi giorni a quest'ora, con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, per parlare del sinodo, e poi andremo sulla vicenda del giallo di Torino, l'uomo ucciso ieri con una fucilata alla schiena. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La politica è più attenta alle intercettazioni che alla mafia, dice l'Associazione Nazionale Magistrati nel giorno del congresso. Sulle tangenti ANAS parla il presidente dell'azienda Radio 24. Chiediamo aiuto alle procure e licenzieremo i coinvolti. Dati falsi nel sistema informatico per incassare i premi di produttività per acquisizioni nelle sedi INPS, si parla di 400 milioni solo per il 2012 e 2013. Un incidente in Francia, si scontrano un camion e un pullman, oltre 40 morti. La borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Si è parlato di veleni, di complotti e di molto altro in occasione di questo sinodo sulla famiglia del Vaticano, che finalmente giunge a conclusione oggi, sostanzialmente l'ultimo giorno. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone. Sì, oggi, tra l'altro, è domani, oggi è l'ultimo giorno in cui si è discusso, però poi domani è il cuore che si vota. Domani pomeriggio, mattina, il testo fino a oggi, tra oggi e domani mattina viene messo a punto il testo finale, su cui sono stati presentati più di 1300 emendamenti, che si chiamano in un altro modo, però, sì, diciamo, questo è il senso, per far capire, c'è un testo finale di un centinaio di pagine dove 10 cardinali, diciamo, che rappresentano abbastanza le varie, i vari continenti, ma anche le varie anime della Chiesa, diciamo, mette a punto questo testo finale su cui domani pomeriggio si vota articolo per articolo, e quello, il cuore, diciamo, il cuore è tutto, però diciamo quello su cui c'è maggiore attenzione, quello sui divorziati e risposati, sarà quello dove ci sarà da vedere se ci sarà o meno la maggioranza. Tra l'altro, caro, tu riporti un'anticipazione di quella che potrebbe essere la conclusione su questo. Che cosa si sta immaginando? Sta immaginando, la soluzione presentata dai tedeschi, peraltro, sono i tedeschi che confermano i teologi più abili e anche in qualche modo più aperti su queste idee, l'idea che non ci sia una norma che mette in discussione la regola chiave della Chiesa, cioè che il matrimonio cristiano è indissolubile, ma viene messa, viene identificato un percorso attraverso cui ogni prete, facendo una confessione particolare, però diciamo così, è proprio un caso per caso, e sarà proprio il caso per caso che potrebbe poi aprire la strada alla riammissione ai sacramenti dei divorziati e risposati, che è poi una delle istanze principali che vengono anche dalla società civile, non solo, diciamo, dal mondo religioso. Questo è un po' il cuore. Questo è il cuore, che viene riportato ampiamente oggi sul Sole 24 Ore, nel pezzo citato da Carlo, nel pezzo scritto da Carlo Marroni, che ritroveremo nelle prossime ore ovviamente per parlare del sinodo anche all'interno di GR24. Federico Genta, cronista della Stampa, buongiorno e benvenuto, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Per parlare con te di quello che è successo ieri a Torino, è una vicenda della quale abbiamo ancora pochissimi dettagli. Un uomo in mezzo alla strada viene colpito da una fucilata alla schiena. Un italiano di 47 anni, un grossista alimentare, se non sbaglio, Federico, di prodotti alimentari. Che esatto. Cosa è successo e che cosa si sa fino a questo punto? È successo che un uomo ieri mattina ha aspettato che la vittima uscisse di casa, era alle sue spalle e gli ha sparato alla schiena da una distanza piuttosto ravvicinata, parliamo di 4 al massimo 5 metri, e gli ha sparato un colpo alla schiena. Vito Moruso è mancato poche ore dopo in ospedale, adesso i carabinieri stanno cercando di capire il movente di un quello che si sta facendo, immagino, è come sempre in questi casi, anche per le modalità, soprattutto scavare nella vita privata oltre che professionale, no? Esatto, questa persona non ha un passato torbido, ma c'è un'ombra, c'è una condanna nel 2005 per appropriazione indebita. All'epoca l'uomo lavorava come addetto al controllo delle merci di un grosso caseificio che c'è in provincia di Torino, e da quel caseificio sono sparite tante mozzarelle, parliamo di una cifra di poco inferiore ai 500.000 euro. Lui è stato imputato insieme ai responsabili di questa società addetta al controllo. Il processo adesso è nella fase d'appello, anche se resta veramente poco verosimile che sia partito da qui il delitto, anche perché il killer, se di killer si può parlare, non sembra, dagli elementi raccolti fino a questo momento, dalle testimonianze di chi ha visto qualcosa ieri mattina, non sembra un professionista. Non sembra un professionista, e però brevemente, Federico, sembra ampiamente premeditata la cosa. Assolutamente sì, nel senso che diversi testimoni raccontano di questa macchina, di questa 500 scura, potrebbe essere nera, potrebbe essere blu, che già alcuni giorni prima, quando la vittima era in Puglia, non era a Torino, si aggirava nel quartiere. Tra l'altro il quartiere non è un quartiere malfamato, il quartiere Senise di Torino è a ridosso del centro, è vicino al tribunale, vicino alla stazione di Porta Susa, per cui non è un luogo tendenzialmente abituato a questo tipo di delitti, per cui anche la reazione della gente a questo sparo, alle urla in strada, è stata immediata. Tanti hanno visto quest'auto allontanarsi immediatamente, peraltro contromano, un altro errore, nel senso che sarebbe bastata una macchina, sì, che percorreva la stessa via in quel momento, l'avrebbe bloccato. Allora Federico, io ti ringrazio, grazie a Federico Genta, cronista della Stampa, e ci riserviamo eventualmente di richiamarti se ci fossero degli aggiornamenti. Traffico, Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.